Friuli nel mondo, 201esima trasmissione dedicata agli emigrati. Musiche, balli e canti di primavera. Vogliamo farvi ascoltare, cari amici lontani, i suoni, i balli e i canti con i quali l'anima friulana esalta la primavera e con essa le notti tiepide, le rondini, le stelle. Amore e primavera sono i motivi perenni del cuore semplice e buono del nostro popolo. Thank you. roses and flowers, tibi odos, die primavera innamorate, svole misere, spandit rosate, con azumie. Il suono gaio della fisarmonica e le belle villotte che avete ascoltato vi riportino con il pensiero sui verdi colli e sui prati fioriti ove si canta e si balla per festeggiare in allegria la dolce stagione che ritorna a rallegrare il cuore di tutti e vi facciano sognare questa terra tanto ricca di poesia, di calore e soprattutto di serena semplicità. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari, esecuzioni del trio Bellina, del gruppo corale Arturo Zardini di Pontebba e del coro aziendale della Saici di Torviscosa.